Proseguendo nella Kuntre Sumayan, nello studio di Hasidut che stiamo facendo, pagina 115, cioè avete pagina 115, sì. Perek Bet? No? vabbè. Se Dio vuole settimana prossima facciamo il libretto nuovo. Pagina 115, vediamo che abbiamo studiato prima, che dà un aspetto del divino trascendente, quello che abbiamo chiamato Makif, che circonda. Tutto è uguale, non si entra nelle differenze. E di conseguenza anche ciò, anche ciò che va contro la volontà di Hashem, come la Klipa e la Sitra Achara, il cosiddetto altro lato, anche da lì anche loro riescono a vivere, cioè ad attrarre energia vitale, esistenza, direttamente da Kadosh Baruch Hu, perché da un livello che non guarda le differenze, detto in maniera semplice, approfondito in precedenza nelle altre lezioni. Ora fa un appunto molto importante. Pensiamo un attimino. Quando noi parliamo del Seder Ishtalshelut, e cioè dell'ordine, cosiddetta catena che scende dall'alto verso il basso, la contrazione successiva e graduale della luce divina per arrivare alla fine in cui la creazione riesce a assumere una illusione di indipendenza dal creatore, ok? Perché è totalmente celata la presenza del creatore. Abbiamo spiegato che il livello inferiore, la parte inferiore del livello superiore, diventa la parte superiore del livello inferiore. Per questo si chiama una catena, come l'anello di una catena, la parte superiore dell'anello successivo si lega alla parte inferiore dell'anello precedente. Vero? Quindi il basso del numero 1 diventa l'alto del numero 2. E questo anche nella Kabbalah e nella Hasidut si chiama Makif, circonda, cioè è al di sopra di, trascende. La parte inferiore di livello A trascende la parte superiore del livello B. Quindi se per il livello A si tratta di una discesa, per il livello B si tratta di qualcosa di più elevato rispetto al proprio livello. E questo si usa anche lì il termine Makif, superiore, è trascendente, diciamo. Ma non è un Makif totale, è un Makif relativo a quel livello, perché relativamente al livello A questa è già una discesa, non è una cosa trascendente. Quindi è una cosa trascendente relativamente al livello successivo, non al livello precedente. Chiaro? C'è invece il livello trascendente, totalmente trascendente, che trascende tutto il Seder Ishtalshelut. Questo è un livello molto più elevato, che è trascendente obiettivamente, non solo relativamente al livello in cui ci si trova, ma obiettivamente trascende tutte queste differenze. Di questo Makif noi stiamo parlando. Il Makif che obiettivamente è un livello che si chiama Or En Sof, luce infinita. Infinita nel senso che non ha limiti, non entra in tutti i limiti e le differenze tra un livello e l'altro. Ora, quello che stiamo imparando oggi è che all'interno di questa espressione divina che si chiama Makif, trascendente, in realtà ci sono due aspetti. Come per ogni cosa che può essere suddivisa nell'aspetto esterno e l'aspetto interno. L'aspetto esterno rappresenta una minore coinvolgenza, coinvolgimento, un minore coinvolgimento, e l'aspetto interno rappresenta la volontà, il volere profondo di chi sta dietro. E questo si chiama Makif, Chitzoniut HaMakif, l'esterno del Makif, e Pnimiut HaMakif, è l'interno del Makif. Quando noi abbiamo detto che dal punto di vista dell'aspetto trascendente del divino non c'è differenza tra il peccatore o quello che non è il peccatore o quello che fa le mitzvot, perché non si entra nei dettagli, questo riguarda il chitzoniut HaMakif, la parte esterna del Makif, la parte esterna. Esterno vuol dire è un'espressione minore di volontà. Cosa vuol dire se tu vuoi una cosa esternamente o la vuoi in maniera interna? Cosa significa? Se vuoi una cosa esternamente, vuol dire che magari quella cosa potrebbe servire a te, è funzionale per qualcos'altro. Ma non che quella cosa è assolutamente indispensabile per te. Non funziona questo, va bene anche un altro. Lo vuoi il caffè? Sì, ma anche se non c'è il caffè espresso, prendo il caffè americano. Perché è funzionale per... Non è che c'è una volontà interna. Interna vuol dire che così deve essere in nessun altro modo. Che c'è un legame di anima tra te e quel volere, quella volontà. Questo è il volere interno. Allora, quando noi abbiamo parlato che non c'è differenza, si parla del Makif esterno. Ma rispetto a quello che adesso vedremo qui in questo testo, rispetto al Makif interno, c'è differenza. Perché la volontà profonda di HaKadosh Baruch Hu è che ci siano la Torah e le mitzvot. Non che è in tutto indifferente. Non è indifferente. Da un punto di vista esterno, quindi meno intimo, può sembrare indifferente. Ma quando entriamo nell'intimo, questo si intende interno, l'intimo, l'interiore, allora certo che c'è differenza. Questa è la sua volontà, questo è il suo volere. Come la creazione, è lo stesso principio. Oh, allora nella creazione, esattamente, c'è scritto Ve'ha'aretz ha'yetah tohu va'vohu, questo cita qui, da tutte le cose della creazione si cita questo versetto, ora vediamo perché. C'è scritto esattamente, c'è scritto Ve'ha'aretz ha'yetah tohu va'vohu. E c'era questo caos, e vechoshech, e c'era questa oscurità. Vayome, e c'è scritto nel Midrash, Elu ma'asehen sherishaim. Quando la Torah fa riferimento al caos, è un'allusione alle azioni, ai comportamenti dei malvagi. Caos. Anarchia. Poi c'è scritto, Vayome relokim yehi or. HaKadosh Baruch Hu dice che ci sia la luce. Dice il Midrash, Elu ma'asehen shel tzadikim. Queste sono le azioni e i comportamenti dei giusti, degli tzadikim. Il Midrash poi dice, ok, abbiamo da una parte, da un lato, gli atti e i comportamenti dei reshaim, tohu vavohu. Dall'altra abbiamo i comportamenti dei tzadikim, yehi or. Ma ancora non, la Torah non indica qual è quella che lui vuole. Qual è quel, il comportamento che lui preferisce. Allora, il Midrash dice, ecco perché la Torah continua, prosegue e dice, Vayare Elohim et ha'or ki tov. E il Signore vide la luce e disse che, e vide che la luce è buona. Cosa buona. Per indicare che quale tra le due preferisce il tohu vavohu o il or, gli atti dei tzadikim o gli atti dei malvagi, quale è tov, quale è definito con il bene, quello dei tzadikim. E cioè, il Midrash usa il termine chafetz b'masehen shel tzadikim. HaKadosh Baruch Hu desidera le azioni dei tzadikim e non desidera ve'eino chafetz, e non desidera gli atti e i comportamenti dei reshaim. Il termine chafetz è un desiderio è più di una volontà, un desiderio interno. Assolutamente sì. Se esiste, cioè come stavi dicendo, esiste quindi una parte esterna che comune, è comune un po' a tutto il genere, giusto? E poi una parte interna che differenzia poi ogni genere rispetto all'altro, anche a livello di comportamento, di avvicinamento, di mitzvot, di quello che uno fa, non la parte interna che poi si lega, diciamo, direttamente. Ok, qual è la domanda? La domanda è, il giudizio. Sì. C'è anche un giudizio comune per parte esterna solamente? Giudizio di chi tu? No, il giudizio mio. Il giudizio di Hashem, comunque. Esiste un giudizio che prende tutto il genere e quindi poi ci può andare di mezzo anche chi pensa di far del giusto. Non ho capito la domanda. Sì, ho capito. Leo, anche volevi dire questo? No, no. Ah. No, è già stata fatta questa domanda. Ne abbiamo parlato? Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del Rosh Hashanah, quando si giudica ogni cosa per tutto l'anno. Abbiamo detto che c'è un giudizio generale, poi c'è un giudizio più particolare, più specifico. Scusate. Il giudizio, anche abbiamo spiegato, abbiamo visto e credo che lo rivedremo di nuovo, esiste anche il giudizio su entrambi i livelli, vero? Adesso non voglio entrare in questo, allungare su questo, perché credo che torneremo a questo tema. Ma è possibile che sia come dici tu da una parte, cioè da un lato può sembrare che, diciamo, si potrebbe essere tutti inclusi in un giudizio generale, e poi però non viene a mancare neanche la parte più specifica, che è quella generale appunto legata a un comportamento di cosiddetto del makif esterno, come stavamo dicendo qui, e quello più specifico che invece rientra nel makif interno e quindi si lega direttamente al desiderio di HaKadosh Baruch Hu, che appunto si esprime nella Torah e nelle mitzvot. Sì, perché proprio quando è tutta questa cosa del makif interno, mm-hmm. Cioè comunque il makif interno io credo che è quello che differenzi un po' un individuo rispetto all'altro. Poi io parlo di individuo perché magari parlo del genere umano, ma penso che questo sì. Guarda un po' tutto quanto, no? Anche... Però il makif esterno, bene o male, è un po' comune. Certo. Quindi poi se esiste un giudizio, quindi cambia anche il livello, quello che era proprio... Cioè, sì. Non è che poi ho un giudizio privato, diciamo, in base al mio makif interno. Non è che è una cosa del genere. E poi... Sì. Magari tu non confondi il makif con l'anima, tu stai facendo, sì. Stai confondendo l'anima col makif. Stiamo entrando in cose diverse. Sì. Il makif interno e quello esterno, noi non siamo capaci di giudicare. Ma lui sta dicendo dentro di te e vede quello che va fuori. Sono due aspetti. Ma non è una cosa dentro di te. No, se te deve giudicare è un'altra cosa. Ma io parlo di giudizio perché allora, in base poi a quello che è stato detto. Allora pure, aspetta, che è stato creato. Sì. Allora, scusa. Il giudizio della persona, per definizione, non è makif. Perché? Di nuovo, makif, ricordiamoci cosa vuol dire makif. Makif vuol dire trascendente. Trascendente vuol dire che non entra nei dettagli, sia makif interno che esterno. Il concetto proprio di makif, makif vuol dire circonda, perché usiamo la metafora di circondare per dire che trascende. Quando noi parliamo di giudizio specifico, in base al comportamento specifico, di una persona specifica, di un momento specifico, di un luogo specifico, questo si chiama pnimi, non makif, interno, non esterno. Interno cioè non trascendente, l'opposto di trascendente. Quindi parliamo di un rapportarsi al mondo da parte di HaKadosh Baruch Hu, quello che abbiamo detto che si chiama memale, che riempie. Che riempie vuol dire che si... adegua, si adatta a ogni cosa secondo le sue definizioni, secondo i suoi parametri. Quindi siamo fuori dal discorso di makif in generale, in linea di massima. È un discorso diverso, quello che stai facendo tu è un discorso che non è makif. Okay. È un discorso di specificità che esiste sul livello di memalè. Quello che abbiamo spiegato, tutta la differenza tra il trascendente e il non trascendente, che il non trascendente... esiste proprio per far sì che ogni cosa sia diversa dall'altra. nella creazione e di conseguenza anche ciò che riguarda tutta quella cosa, il suo giudizio, il suo destino, tutto quanto che è legato, è differente da ogni altra cosa che esiste nel mondo. Adesso stiamo vedendo più approfonditamente la parte trascendente, che è un altro discorso. No, Todà a te che hai aiutato a chiarire. Ok. Ora dice il motivo per cui troviamo quello che ci chiediamo spesso, per quale motivo siamo spesso in sofferenza o in galut, tutti i grandi maestri si chiedono quali sono le motivi dell'antisemitismo e arrivano sempre a conclusioni che spesso non c'entrano niente con la realtà. Dice questo è legato al nostro comportamento. Dice quando il popolo ebraico mette in atto la volontà di HaKadosh Baruch Hu come era all'epoca del Bet HaMikdash e il popolo si trovava su un alto livello spirituale e avevano anche il bene materiale, non solamente il bene spirituale. C'è scritto riguardo i tempi di Salomone che ognuno era tachat gafnov e tachat einato, ognuno aveva la possibilità di stare tranquillo sotto il suo, la sua vite e sotto i suoi alberi di fichi. Cioè c'era una tranquillità anche materiale. Mentre invece nell'epoca dell'esilio del Galut manca questo bene sia spirituale che materiale. Dice scusa. Se il flusso dell'energia divina, della vitalità e di tutto il bene viene dall'alto, da un livello trascendente dove non si considera il comportamento della persona, allora perché dovrebbe essere la situazione diversa quando siamo in Galut? Cioè perché Israel si legano al Pnimiyut, al desiderio interno, quello che dicevamo prima. E di conseguenza, anche se si tratta di qualcosa di trascendente, è il desiderio interno del livello trascendente, dove c'è sì differenza tra Torah e Mitzvot e non Torah e Mitzvot, tra Israel e non Israel. Ecco perché è scritto in Michukotai Telechu, qualora seguirete i miei statuti, venatati gishmechem beitam, ci sono tutte le berachot, vi darò le piogge nel tempo giusto e tutto quanto il resto e la protezione e i prodotti della terra, eccetera, eccetera. Cioè, che si lega direttamente nella Torah la promessa di HaKadosh Baruch Hu per il bene materiale legato direttamente al comportamento spirituale della persona. A differenza di quanto abbiamo detto tutto il tempo che HaKadosh Baruch Hu normalmente si comporta con il mondo in una maniera che dal punto di vista trascendente, no? Che quello che c'è perché non cambia niente, non si entra nei dettagli. Invece la Torah lega le due cose per Am Israel, visto che si tratta, secondo la spiegazione che abbiamo dato, visto che si tratta del desiderio interno. Il desiderio interno, certo che cambia. E una persona potrebbe dire, vai a comprare una casa. Vabbè, mi serve una stanza, mi serve una cucina, mi serve le cose base, però se a 50 metri, 60 metri, 20 metri, se piano alto, piano basso, se tutte queste cose sono di minore, potrebbero essere di minore importanza per la persona, no? L'importante è che ho una casa. La differenza nella casa stessa non fa tanta differenza, non fa tanto differenza. Ma che sia una casa fa differenza. Se gli offri invece della casa una tenda nel deserto, non è questo che vuole. Oppure se gli offri addirittura qualcosa che non c'entra niente con una dimora, è chiaro che non è di questo che stiamo parlando. Allora vuol dire c'è una differenza tra un desiderio generico, casa, e un desiderio specifico. La modalità potrebbe essere generica. Che basta che sia una casa, basta che ho un tetto sopra la testa. Ma il desiderio che la persona ha naturalmente di avere questo tetto è un desiderio interno. È una cosa che non può essere cambiata per un'altra cosa che non c'entra niente. Vabbè, non riesco a trovare una casa, mi faccio un motorino. C'entra niente. Non mi aiuta. Non è questo il desiderio. Il desiderio è quello di avere una dimora. Non riesco a avere l'attico, prendo il terzo piano. Ok. Sempre, non è esatto. No. Può cambiare quel desiderio, è più esterno. Ma il desiderio interno che ci sia la dimora, faccio un esempio stupido, solo per... Quello non può cambiare. Il desiderio si può tradurre in tefillà, in preghiera che noi facciamo. Perché? Non vedo il nesso, se vuoi spiegare. Quello che io desidero è una cosa che io comunque devo chiedere al Signore. Lo devi chiedere, ma non si identifica con quello, non è la stessa cosa. La mia richiesta, no? La mia richiesta interna la traduco io. Allora, tefilà si traduce con esigenza più che con desiderio. Vuol dire, le nostre esigenze nella tefilà dobbiamo chiederle ad HaKadosh Baruch Hu, che lui riempia, esaudisca le nostre richieste nel senso di quello che ci manca, le nostre esigenze. Non ogni desiderio si traduce in questo. Quindi potrebbero essere legate e potrebbero essere distinte, secondo me, se ho capito bene... Ma non è una cosa personale la tefilà, è generale. Ma è anche personale, però. Anzi, personale, una tefilà. La tefilà deve anche essere personale. Se è personale vuol dire che fai una domanda. Anche. Certo, la tefilà è una domanda. Desiderio non è necessariamente desiderio. Guarda l'amida, sono tutte domande, richieste. Desiderio non è necessariamente esigenza. Non necessariamente. C'è qualcuno che desidera qualcosa che però non è un'esigenza. No, volevo dire una cosa su questo al soggetto qua. Sì. Cioè, ogni ebreo quando arriva in Israele, sì, c'ha la sensazione di appartenere a questa terra, ma è una sensazione molto forte a livello interno. Sì. Poi c'è l'atto esterno che è la civiltà e questo qui, ma lui quando arriva, sì, questa è la cosa esterna che piace o non piace, ma lui quando entra in Israele si sente proprio che fa parte di questa terra, è la cosa interna che c'è. Sì, questo è vero. Baruch, è vero, per qualsiasi ebreo che entra in Israele si sente proprio appagato, come quello che sta sotto la vigna e il suo fico. Ok, ora ascolta. Ho sentito ogni parola. Non hai fatto una domanda, che devo rispondere? Hai fatto un'osservazione. Hai fatto un'osservazione. Esatto. Ok. C'è scritto nel profeta Ishayahu, Bechol tzaratam lo tzar, in ognuna delle loro sofferenze di Am Israel, lo a lui... Lo a lui, Vav, no? Lo, Lamed Vav. Tzar, anche lui soffre. HaKadosh Baruch Hu condivide la sofferenza di Am Yisrael. Però se noi guardiamo il versetto, è scritto Lo con una Aleph, non con una Vav. In ogni loro sofferenza lui non soffre. I maestri dicono, c'è scritto con una Aleph, ma si legge con una Vav. Ci sono tanti esempi nella Torah, nelle scritture dei Nevi'im, dei profeti, eccetera, che una cosa si legge in un modo, ma si scrive in un altro. Come Altikre Banaich e la Bonaich. Si scrive Banaich, tuoi figli, ma si legge Bonaich, i tuoi costruttori. Lo diciamo la mattina nel Pituma Ketoret, no? Dopo il Pituma. Cioè c'è un senso rivelato e un senso più profondo. Il senso rivelato è scritto, il senso più profondo è detto ma non è scritto. È detto non soffre, è scritto non soffre, lo con un alef, ma è letto come se fosse una vav. A lui è una sofferenza, che lui partecipa nella sofferenza. Il Zohar spiega per quale motivo devi scrivere in un modo e dirlo in un altro. Se vuoi dire che HaKadosh Baruch Hu partecipa alla nostra sofferenza, sì, scrivilo con una Vav. Esatto. Direttamente sarà più chiaro. Noi invece scrive come se non partecipa e dice davvero partecipo, solo che di nascosto. Dillo chiaramente. E non è da allora il Zohar di spiega. Zohar spiega. C'è scritto con una Aleph e si legge con una Vav. Per quale motivo? Perché HaKadosh Baruch Hu si trova con loro nella sofferenza, dice il Zohar. Ma in che maniera si trova con loro nella sofferenza? Nel modo più interno e più profondo e più elevato, un luogo, luogo inteso come livello, come concetto del divino. Com'è la frase in ebraico? Un luogo in cui lo tsar, con la Aleph, un luogo in cui non c'è nessuna sofferenza. Non è possibile che una sofferenza abbia un effetto su un livello divino così profondo. E nonostante un livello divino così profondo, lo tsar con una Vav. Comunque la sofferenza di Israele è sentita anche lì. Ecco perché è scritto con una Aleph, per dire di che livello stiamo parlando, di un livello così tranquillo, così elevato, così profondo, che nessuna sofferenza arriva lì. E nonostante ciò ci arriva la sofferenza di Israele. Spiego di nuovo. Ma la legge in ebraico com'è? Scusa. Bechol tzaratam lo tzar. E come si scrive di lui in ebraico? Lamed vav. Come dire no? Si scrive uguale? No. No. Dammi la penna. Mi passi una matita per favore, grazie. Di lui è elevato, no? Allora, no? Sì. Sì. Ok. Vav. Allora. Ok. Lo tsar è scritto con una Aleph, non soffre, lo tsar, e invece si legge con una Vav, lo tsar, per lui è sofferente la situazione. Lo e lui vuol dire. Lo con una Vav vuol dire per lui. Tagid lo, di a lui. Sì, sì, sì. Non vuol dire di no, sì. Di a lui. Tagid lo con una Aleph vuol dire di no. Dire di no. Ok? Allora... Se lui soffre, potrebbe scrivere lo tsar, lui soffre, con la Vav. Perché scrive lo con la Vav e dice però si intende con, cioè scrive con la Ale per dire non, ma si intende con la Vav. Potrebbe dire direttamente, lui soffre. Invece lo scrive con un Aleph, perché? Per dire, in che maniera soffre? Ci sono diversi modi come una persona può soffrire per il male di un'altra persona. C'è uno che soffre e dice, mannaggia, questo qui sta in difficoltà, poveraccio. E poi va a prendersi il suo caffè e se ne dimentica. Che devo fare? Problema suo. Anche se non dice in questa maniera, ma il comportamento indica, sì, soffro un po'. Distaccato però. Però è distaccato. È esterno. Esterno, bravissimo. Non partecipa internamente. Non lo tocca. Invece un altro che dice, oh mamma mia quanto soffre questa persona, e va lì e lo aiuta, oppure anche se non riesce ad aiutare, almeno soffre insieme a lui, cioè esprime empatia, gli sta vicino, eccetera. Questo vuol dire che gli sta soffrendo con lui. Ok? Ma se uno si trova in una situazione in cui non c'è nessun legame tra lui e la persona che soffre. O non sa che soffre. Oppure non c'è modo che ci sia un legame tra queste due persone. Non è un disinteressarsi. Disinteressarsi vuol dire che la cosa potrebbe interessarti e tu decidi di disinteressarti. Però se volessi, potresti interessarti. Qui stiamo parlando di uno che neanche si disinteressa, non c'è proprio legame. Neanche è arrivato a disinteressarsi, è ancora più distante. Ok? Se quello che è così distante, che neanche è arrivato a disinteressarsi, succede che si interessa, e non solamente si interessa, ma si coinvolge nella sofferenza di quell'altro, questa è una cosa molto più lodevole, molto più grande, molto più importante. Ecco cosa sta dicendo il versetto. Lo, in questo livello di Akadosh Baruch Hu non c'è nessun legame alla sofferenza dell'essere umano o del popolo ebraico. È talmente elevato, è talmente profondo, che è un livello che è completamente disinteressato. Non perché non vuole interessarsi, perché non c'entra niente. Per questo dice Lo, non c'entra. E nonostante ciò si legge Lo con la Vav. E comunque decide di interessarsi a quel livello che in teoria non c'entra nulla. Pur non sentendolo... Sì, pur in teoria non ci sarebbe... Il sentimento è voluto, però l'ha creato. Allora, nonostante il Lo con la Vav, Akadosh Baruch Hu dice: no, io mi coinvolgo con la Vav. Nonostante il Lo con la Aleph, il No, io mi coinvolgo con la Vav. Io sì, sono presente. Abbiamo capito o no? Sì. Ci sembra di sì. No, è chiaro. Io non so se ho spiegato chiaramente, se devo rispiegare. No, ho dubbi. Mi fa male questa storia. È un gioco di parole. Quando loro soffrono, lui non soffre, perché dovrebbe soffrire? Secondo me è una supposizione questa. Non è... Nonostante ciò, lui decide di soffrire. Non mi ci identifico con questa cosa, purtroppo. Io penso soprattutto all'Olocausto. No, ma lascia aspettare. Aspetta, stiamo parlando dell'idea che c'è un desiderio che si chiama un desiderio interno. Questa che abbiamo portato adesso su Bechol Saratam Lozar è stato difficile spiegare per... Se uno non ha le parole davanti e non capisce bene l'ebraico, allora lo... C'è un po' di confusione, però il punto che vogliamo trasmettere qui, che il Zohar spiega, è semplicemente che il livello di coinvolgimento con Am Israel è un livello interiore, un desiderio interiore. Questo è quello che sta dicendo. E si esprime in questo versetto, ma possiamo anche lasciare stare il versetto. È un'allusione che si allude a questo concetto, ma l'importante è il concetto. Il concetto qual è? Il concetto è che il coinvolgimento di desiderio di Akadosh Baruch Hu, anche a livello trascendente, interiore, si lega direttamente a Am Israel, al loro comportamento naturale mitzvot. Questo è il punto. Makif interno, esattamente. Poi vedremo... Poi vedremo che dal Makif interno si arriva a un livello ancora più elevato e spiegheremo la prossima volta.